problema è che ci sono state alcune centraline installate dal, diciamo, da Aria che Tira, che è un'associazione che fa monitoraggio, quindi sono centraline indipendenti a cui noi hanno dato accesso ai dati e abbiamo notato sostanzialmente dei picchi molto molto alti, perché loro le centraline le hanno localizzate, una in via Ristori, che sostanzialmente a Brignole, una a Canepari, che è dall'altra parte, e una sul l'argine del Polcevera, quindi proprio sul torrente attraversato dal Ponte Morandi, e a regime di picco le PM10 di via Ristori, quindi nel quartiere di Brin, sono a 769, su una soglia che in teoria dovrebbe essere a 50 microgrammi al metro cubo di media giornaliera. La media giornaliera calcolata con questi valori viene fuori intorno ai 71,78, quindi un terzo più di quello consentito dalla legge e previsto dal Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra l'altro questo dato si riscontra anche sulle PM2,5, che sono le polveri ultra sottili, quelle ancora più sottili delle polveri sottili, che sono andate a un picco di 172 microgrammi per metro cubo, laddove l'Organizzazione Mondiale della Sanità fissa una soglia di 25. Mentre invece per quel che riguarda il rischio amianto, questo sembra essere scongiurato, non è vero? Delle strutture della parte di amianto che era su delle infrastrutture diverse dal ponte, perché tutti hanno visto purtroppo le tragiche immagini, quindi si sono resi conto che il ponte passava sopra case e tessuto urbano in genere. Diciamo che due o tre giorni fa sono andati a rimuovere, chiaramente nella maniera corretta, con un'azienda certificata di smaltimento, l'amianto che c'era, diciamo, nell'area che poteva in qualche modo essere interessata da questa gestione controllata, che poi, voglio dire, chi l'ha vista si è reso conto che è andata molto bene, no? Come era prevista il crollo, però non era così, insomma, scontato, tant'è che anche l'area di evacuazione e l'area di tolleranza è stata molto più ampia anche da parte di chi ha fatto la demolizione. Quindi su quella cosa lì pare, dai dati che abbiamo in mano noi, non riscontriamo amianto nella struttura. So che qualcuno aveva avanzato questa ipotesi, però noi a oggi non abbiamo dati scientifici in mano che dimostrano una presenza di amianto. Comunque teniamo monitorato, il primo monitoraggio sulle centraline ovviamente è stato fatto sulle polveri sottili, però credo che adesso lì ARPA stessa, Agenzia Regionale dell'Ambiente, stia andando avanti a fare rilevamenti e controlli. Però la domanda che ci si pone è perché non si poteva limitare anche un po' il dilagare delle polveri sottili con l'abbattimento? Cioè, era possibile mettere in atto qualche precauzione in più, magari? Purtroppo il sistema di abbattimento, ovviamente su quelle strutture di cemento armato, calcoliamo che è un ponte che è venuto giù da solo, no? Quindi lo stato del cemento armato di quelle strutture ce la dice lunga. Poi gli stessi Monconi avevano già delle strutture minate. L'altezza era notevole, quindi ovviamente la forza di gravità chiaramente da un'altezza del genere poi genera le conseguenze che abbiamo visto. Teniamo conto che è stata abbastanza contenuta anche in virtù del fatto che non ci sono stati venti che hanno spinto, e tutte le casse d'acqua e il lavoro con gli idranti l'ha contenuto molto. Infatti dalle immagini in televisione si vede che la nube rimane molto lì e poi scende piano piano. Era un po' quello che bisognava fare, nel senso che è rimasta comunque nell'area evacuata, quindi rispetto ai cittadini sicuramente sono stati messi abbastanza in sicurezza. È caduta lì, poi è chiaro che con l'acqua si smorza questa polvere. Infatti poi i cittadini dovranno lavare i poggioli eccetera, usare l'acqua per pulire e non farlo a secco, però in sostanza diciamo che alle 10:15, quindi diciamo mezz'ora 40 minuti dopo l'esplosione, i valori sembravano tornati alla media, anche, ripeto, con le centraline indipendenti, quindi non soltanto con le centraline ufficiali. Non si è capito perché, ma le centraline ufficiali sono state accese un quarto d'ora dopo l'esplosione, questo perché volevano tener conto dei valori di media e non essere inficiate dal picco. Quindi noi abbiamo tenuto conto di questo questi valori diversi tra le centraline indipendenti e quelle, chiamiamole ufficiali, insomma, degli enti pubblici. E invece per quel che riguarda le macerie cosa ci può dire? Dunque, sulle macerie ci sono 40.000 tonnellate di rifiuti inerti, sostanzialmente, di macerie. Ora, le alternative sono due: si potrebbero riutilizzare in loco per la costruzione del nuovo ponte, oppure portarle via e portarle in un luogo sicuro di stoccaggio di rifiuti inerti. Noi riteniamo che uno sforzo in tal senso sull'utilizzo e sul riutilizzo delle macerie per la costruzione andrebbe fatto. Anche perché portare via 40.000 tonnellate in un'area già gravata da problemi di traffico insostenibili e che ovviamente il crollo del ponte Morandi non ha fatto altro che peggiorare, è un ulteriore disagio per questi cittadini che vivono in quella zona già particolarmente colpita. Insomma, è un anno che questi non fanno più vita per un motivo o per l'altro. Anche dal punto di vista ecologico, il fatto di riutilizzare materie prime e seconde invece di andare a utilizzare materie vergini ci sembra una cosa positiva. A oggi però non ci sono ancora questi tipi di risoluzione, cioè non c'è un documento ufficiale dove si parla di riutilizzo o dove si parla di area di stoccaggio. Ci piacerebbe saperlo, lo stiamo chiedendo.